Ho conosciuto persone super portate a comunicare con gli anziani, altri invece dicono proprio di non sentirsi in grado di farlo. Personalmente credo che bastino un po' di sensibilità, tanta pratica e poi anche tener conto di alcuni fattori. Ve ne dirò 5. Il quinto in particolare è un trucchetto che vedrete che vi servirà molto per comunicare in modo efficace con gli anziani. Come sempre, se poi vi vengono in mente altre idee, aggiungetele nei commenti qua sotto. Primo, tieni conto delle difficoltà che un anziano può avere e non avere fretta. Le persone anziane hanno difficoltà non soltanto di tipo fisico, ma anche di tipo cognitivo. Oltre ad un rallentamento generale del fisico, qualche acciacco, cominciano ad avere magari anche difficoltà dal punto di vista del pensiero. Potrebbero essere lenti nell'esporre qualcosa o perdersi magari durante il racconto. È importante non avere fretta. La fretta a volte si manifesta ad esempio nel voler noi completare la frase o trovare noi la parola giusta al suo posto. No, lasciamoli parlare con calma, diamogli tempo. Soprattutto è importante non dare l'impressione che stiamo giudicando la sua lentezza, ma accoglierla con lo sguardo, con il sorriso, con la pazienza, di modo che si sentano a loro agio anche se non sono velocissimi. Quando siamo con un anziano, rallentiamo. Secondo, non pretendere che la persona cambi idee, metodi, mentalità. I traslochi sono una cosa stressante per tutti, perché cambiare casa, cambiare abitudini è sempre difficile. Ora, quando qualcuno tenta di farci cambiare un'idea, ecco, questo è faticoso, questo è stressante. Pensiamo quanto può esserlo per un anziano. Non cerchiamo a tutti i costi di fargli traslocare. Anzi, proviamo a metterci noi comodi in casa sua. Proviamo a capirne il paesaggio interiore, proviamo a cercare di comprendere qual è il suo pensiero, qual è il suo modo di ragionare, senza pretendere che lui lo cambi per venire nel nostro modo di pensare. Terzo, l'anziano ha più passato che futuro, ha una lunga storia alle spalle e, come tutti noi, ha un gran desiderio di raccontarla. Mettiti in ascolto della storia che ha da raccontarti. Ascolta ciò che ha fatto, i suoi traguardi, le sue soddisfazioni. Ascoltalo, anche se è la 124esima volta che ti racconta la stessa cosa. La storia di una persona è soprattutto la storia delle relazioni che ha saputo costruire ed intrecciare. E allora ascolta soprattutto la storia della sua famiglia, di quello che ha costruito, dei rapporti importanti che hanno dato un senso alla sua vita, ma anche la storia del suo ultimo acciacco, di quel dolore lontano ma sempre vivo, di quel ricordo penoso, ma anche di quell'obiettivo che ha raggiunto e che a distanza di anni gli dà ancora così tanta soddisfazione. Quarto, cerca il modo migliore per esprimere tenerezza e vicinanza. Perché il modo migliore? Perché non siamo tutti uguali e magari non a tutti fa piacere un abbraccio. Ognuno ha il suo modo di esprimere e di ricevere affetto. Mi sembra di poter dire che quasi tutti gli anziani abbiano molta sensibilità nei confronti dei gesti di affetto e di tenerezza, specialmente da persone più giovani di loro, perché questo gli dà l'impressione di essere ancora vivi, di non essere tagliati fuori dal balletto della vita, di essere ancora amabili, di essere ancora accettati per quello che sono. Tra uomini e donne, forse le donne sono più sensibili alla tenerezza. Gli uomini, magari anche a causa dell'educazione che hanno ricevuto, delle loro abitudini, sono magari più restii, a volte sono un po' più imbarazzati. Per riuscire a dare con serenità un abbraccio o una carezza, occorre tempo, attenzione e sensibilità. Occorre saper cogliere da piccoli particolari se la persona di fronte a un nostro gesto di affetto si lascia avvicinare, oppure se magari si allontana un pochino imbarazzata. Occorre lasciargli tempo, magari quel tempo di cui parla la volpe al piccolo principe, il tempo del riuscire ad addomesticarsi vicendevolmente. Possiamo tenere la mano, possiamo dare una carezza, ma al di là di questo credo che già di per sé l'ascolto sia un grandissimo gesto di affetto e di tenerezza, sicuramente molto apprezzato, perché un ascolto vero, profondo, è come una carezza che ci raggiunge nel profondo del nostro animo, ci fa sentire di essere persone. E infine ecco un piccolo efficace trucco per trovare sempre nuovi argomenti di conversazione. Se vai a trovare un anziano nel suo ambiente, guardati intorno, cerca di vedere tutto quello che c'è, fai il detective, osserva con attenzione e poi chiedi. Fai finta di essere un bambino, guarda con attenzione e curiosità e chiedi ciò che chiederebbe un bambino. Ad esempio, chi sono questi bei bambini in questo quadretto? Questa foto quando è stata scattata? Questo oggetto da dove proviene? Scoprirai che gli oggetti hanno un'anima e una storia da raccontare. Guardando con attenzione il suo ambiente, riuscirai anche a scoprire quali sono state o quali sono ancora le passioni di quella persona. E anche in questo caso, chiedi, chiedi e chiedi, e vedrai come i suoi occhi si illumineranno e comincerà a raccontarti con gioia tutto quanto. A volte potrà anche succedere che chiedendo tu vai a toccare un tasto che magari fa un pochino soffrire la persona. Ecco, in quel caso non avere paura di quel momento di commozione, lascia ancora che racconti, perché questo potrebbe comunque essere positivo per l'anziano. Cerca comunque di renderti conto se quel ricordo invece lo mette in imbarazzo o in difficoltà, e allora in quel caso magari cerca di cambiare discorso prendendo un'altra idea, un'altra suggestione, sempre dall'ambiente in cui si trova. Beh, a questo punto non ti resta che andare, incontrare, chiedere ed ascoltare, e scoprirai quanto sono vere quelle parole di Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Iscriviti al canale YouTube oppure alla pagina Facebook. O ancora, se hai Telegram, puoi anche iscriverti al canale di Comunicare il Sorriso di Dio. Vai su Telegram e cerca Comunicare il Sorriso di Dio, tutto attaccato. In questo modo non potrai proprio perderti le notifiche dei nuovi video che, come sempre, vengono pubblicati ogni lunedì mattina.